Con i teschi messicani. Non lasciare andare le mie mani. Che lingua mi avrei detto come diavolo ti chiami? Nessuno che mi dice non si fa. Ballo come fossi nata qua. E mi baci la bocca con la maglia del Boca. Io che dagli occhi non piango più Nilo. Tu con le frasi macchiate di vino. Senti che brucia qualcosa stasera. Che sale, che sale, che sale. La bombonera. La bombonera.